Te ne sei andata piano, senza fare rumore. Resta il riflesso su un schermo, ma manca il tuo calore. Ridevi delle nostre paure, stringevi il buio in un abbraccio, facevi spazio alle insicure. Tranquilla, ci sono io, abbraccio. Ora il silenzio fa più eco nella stanza, nel display. Ci chiediamo se da qualche parte ridi ancora insieme a noi. Ciao Paolo Cannore, ci manchi te. Hai lasciato un vuoto che non se ne va. Hai rubato i cuori e li hai messi a brillare. Chi difende le ragazze adesso se non ci sei? Ciao Paolo Cannore, resta con noi. In ogni frase, in ogni ehi, ci sono io. Se chiudiamo gli occhi ti sentiamo arrivare. E per un attimo sei un ritornare. Senza mai ferire nessuno, facevi muro per le signorine. Qui nessuno tocca nessuno. Ci ha insegnato a stare in piedi anche con le gambe che tremano. Se ti senti piccola, va bene. Io ti vedo, ti difendo. Stesso schermo e mi domando dove andare. Ciao Paolo Cannore, ci manchi già. Hai lasciato un vuoto che non se ne va. Hai rubato i cuori e li hai messi a brillare. Chi difende le ragazze adesso? Per un attimo sembri tornare. Questa malattia ti ha preso il corpo, ma non si è preso il tuo coraggio. Nelle risate o denti stretti, né quel qual buffo linguaggio. Ti immaginiamoli a scherzare, a far sentire al sicuro anche gli angeli, a dire oh. Tanto poi ci rivedremo. Ciao Paolo Cannore, ci manchi già. Ma ciò che sei stato non se ne andrà. Hai rubato i fuori e li hai fatti volare. E un pezzo del tuo cielo lo teniamo con noi. Verrà a rialzare.